In diretta dai Radio Ciroma Studios, sotto il copyright della 20th Century Fox, i Mozilla Bros. From Cosenza, i Mozilla Bros. Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, siamo di nuovo in onda, i vostri Mozilla Bros con i soliti 25-51 minuti di ritardo. Siamo di nuovo on air, siamo un gruppo ben nutrito questa sera, perché oltre alla solita formazione senza Garul, purtroppo, siamo i classici Ono Sendai, Ciccillo, e buonasera, e l'altissimo nonché 4000 Andrea Blues, ciao. È il vostro Lorenzo Blues di fiducia. C'è anche praticamente tutta Petronà, che è un paesino della Sila Catanzarese. Purtroppo catanzarese. Petronà non manca mai. Non manca mai. Infatti abbiamo avuto Stefano qualche sera fa in trasmissione. Ma adesso abbiamo un gruppo ben proprio, una schiera di Petronà. Un cugno, sì, come ci suggerisce Ciccio Marino, che presento e saluto. Buonasera Ciccio. Yeah. Poi ci sono Paolo. Devi parlare al microfono. Devo parlare al microfono, buonasera. C'è Walter. Ciao a tutti. E il qui presente è Stefano. La voce più calda di Petronà. Va bene. Siamo in onda qui questa sera. Abbiamo un sacco di cose da dire. Come al solito, le nostre news nerd non mancheranno mai. Chiaramente condite dalla bellissima e incredibile musica blues che passiamo ogni settimana, vero Andrea? Ce la devono dire gli altri, se no vado bene. Vabbè, quando una cosa è così, hai ragione. Vi passo quindi a presentare la prima canzone, dato che mi fanno pressione alla regia. Partiremo con un bellissimo pezzo degli Aerosmith, un blues rock pazzesco, chiestoci dal nostro Stefano Blues. Questo è Same Old Song and Dance, Aerosmith. Same old story, same old song and dance. king, I found with your gun. No smooth face, a lawyer can get you undone. Say love ain't the same on the south side of town. You could look, but you ain't gonna find it around. That's the same old story, same old song and dance, my friend. That's the same old story, same old story, same old song and direction. Ain't gonna change it. Can't be raging. Can't stand the pain when it's all the same to you. Questi erano gli Aerosmith. Gli Aerosmith, bene, bene sì, erano proprio gli Aerosmith, uno dei gruppi più prolifici e longevi della storia della musica rock, diciamo, perché comunque dagli anni 70 sono ancora in attività, se la sentono, diciamo, no? Direi. Diresti, come voi petronesi sapete. Sì, uno Steven Tyler che è stato molto magari criticato negli ultimi periodi per le sue scelte, anche soprattutto estetiche, negli ultimi minuti, perché parlavamo della sua poca bellezza fisica. Rispetto a quello. Magari alle donne piacerà pure. Però, cioè, ci chiedevamo come la figlia, ossia Liv Tyler, che avete potuto apprezzare come l'elfa. Sì, non era l'elfa del Signore degli Anelli, quella che tutti consigli. Cioè, è pazzesca, perché quando la riprende la telecamera esce luce. Lei è proprio una bella ragazza. Vabbè, è una figlia del blues, se vogliamo. È una bella figlia. Insomma, comunque. È cucio. Steven Tyler, che è stato un poco criticato negli ultimi periodi, perché stavi dicendo del blues. Sì, anche per le sue scelte magari pure di estetica. Praticamente ha poco fatto tipo Pamela Anderson, se lo guardi, è tutta una plastica. È un nostro, cioè potrebbe essere definito un amico di plastica. Sì, precisamente. No, sì. Beh, in realtà no, perché è un rocker, un vero rocker. Quindi però questo non glielo possiamo dire. È un amico, un amico rocker fatto di plastica, però. Sì, un po' di plastica c'è. Diciamo, non lo vedi uscire in Stratos e giubbino quello. Però se la plastica suona in quel modo mi sta bene. Va bene, va bene. Mi va anche bene. Questi che abbiamo sentito prima erano gli Aerosmith. Vabbè, che c'è da dire? Serve troppo da dire sugli Aerosmith. È una canzone quella che abbiamo sentito è una canzone del loro secondo disco, che si chiama Get Your Wings. Praticamente gli Aerosmith hanno fatto una cosa che non è proprio di tutte le band, sebbene lo facciano praticamente tutti. Hanno fatto una concertografia addirittura. Per ogni disco che usciva facevano il corrispondente tour live, facendo solo le canzoni di quei pezzi. E mentre Walter un po' come hanno fatto i Pink Floyd, sì, diciamo un po' come i Pink Floyd. Vabbè, avevano un po' da imparare, chiaramente. Bene, dopo questo stacco sugli Aerosmith ritorniamo in trasmissione. Sì, c'è il nostro ospite che deve presentarci una canzone. Sì, il nostro frontman ospite deve presentarci una canzone di un suo amico. Sì, presento un gruppo di Reggio Calabria, sì. i White Knot Hall. Praticamente un po' di storia sulla band. La band si forma nel 2007, inizialmente composta da Davide Ariara, voce e chitarra, Antonio De Paolo a chitarra e Daniele Papandrea batteria. Dopo una prima fase fatta esclusivamente di cover, la band inizia a decidere a realizzare dei pezzi inediti, alcuni dei quali sono stati presentati per la prima volta in occasione della manifestazione Porte Aperte, tenutesi nel 2008 presso la Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea della Calabria, Reggio Calabria. Dopo qualche tempo si completa la formazione con l'arrivo di Salvatore Praticò, nuovo bassista della band, e Giancarlo Carbone alla batteria, alla chitarra elettrica. A marzo del 2011 esce il primo EP dal titolo Oltre le distanze, registrato nel PFL di studio di Reggio Calabria. A maggio la band partecipa al contest I Love Live presso il Random Music Club, vincendo uno dei primi premi, che consiste nell'accesso diretto alle semifinali del Reggio Pop Music Festival. Ulteriormente la band si rinnova, avendo Daniele e Giancarlo se ne vanno, e arriva Roberto Carpino alla batteria, con il quale i White Knot Hall si sono esibiti alle semifinali del Reggio Pop Music Festival. Niente, ascoltiamo adesso un pezzo dall'album, appunto Oltre la distanza, che si chiama Dentro me. Potete comunque ascoltare un live di questo gruppo a maggio, il 15 maggio al B-Side, sì, al contest. Quindi dalle nostre parti. Sì, diciamo sì. E poi comunque a metà aprile nascerà il nuovo album dei White Knot Hall. Hanno rilasciato addirittura un EP. Certo, come certo. Ah, va bene, quindi. E questo sono i White Knot Hall con Dentro me. Tanto dopo questa Why Not All Day, dopo questa Dentro Me dei Why Not All, scusatemi, ritorniamo in trasmissione. Siamo in Mozilla Bros 105.7 come al solito. Diciamo un bel pezzo, Lorenzo, ti è piaciuto? Sì, un bel pezzo. Non è per la musica che ascolto di solito, chiaramente mi faccio di blues. Però di blues. E lo ammetti fieramente. Lo ammetto fieramente. Niente, questa qua era Dentro Me. Possiamo dare inizio alla rassegna nerd? Sì, in questa serata. Sì, bene, sì, infatti Mozilla Bros non sono musica, ma sono musica e nerd. E tecnologia, diciamo. E non poesia, come mi verrebbe da dire. Ma anche poesia, a breve, abbiate fede. Anche no. Comunque, partiamo all'insegna della più sfrenata paranoia delle paranoie, giusto CC? Sì, sono tre lettere che fanno tremare i polsi, specialmente riguardo la notizia che abbiamo appena appreso. Già, come ti tremano i polsi, Gigi? I polsi? Come tremano? Ma non te lo posso fare vedere. Però così. Hai sentito? Lo immaginavo. Bravo. Da tanti anni che ti tremano, Ma mai nessuno è riuscito a far vedere come tremano i polsi. Forse solo la Madonna di polsi. Però ritorniamo alla paranoia, perché a quanto pare, secondo la famosa rivista americana Wired, l'NSA è pronta a battezzare un'altra delle sue belle creature, ovvero un immenso centro per la cybersicurezza. Come sapete, ultimamente tutti i vari governi si stanno affrettando a prepararsi a queste cyberguerre, insomma, eserciti di nerd assoldati per cose varie. Però a quanto emerge da questo dossier, questo centro, che dovrebbe essere nello Utah e dovrebbe anche essere bello grande, circa 2300 metri quadri, non dovrebbe essere solo per la cyber difesa, ma sembra che l'NSA sotto sotto stia per metterci dentro un grandissimo centro per l'intercettazione e la sorveglianza del web. Che sottofondo? Smorziamo la tensione col sottofondo, ma continuiamo. Perché? Perché praticamente emerge che da questo centro spionistico, che dovrebbe essere connesso direttamente con i vari apparati di rete, le società di telecomunicazioni, con stazioni satellitari di AT&T, quindi dovrebbe riuscire senza alcun... cioè, anzi, più che intercettare praticamente le comunicazioni fra i vari cinque continenti, passeranno anche da questo centro. Praticamente questo megacentro dovrebbe anche essere equipaggiato, varie spifferate vogliono, entro il 2018, con un bellissimo super computer di classe Exaflop. Cioè, gli exaflop sono cose che non si riescono nemmeno a scrivere su un foglio di carta. Io ero rimasto in petaflop. Eh? Si mangia. Ma se riesci... Ti mangiano più. Tu sei rimasto, Lore, scusa? E i petaflop. Vabbè, petaflop per attitudini tue personali, insomma. Tu mi insegni. Insomma, gli exaflop, tanto per capirci, sono 10 alla 18 operazioni in virgola mobile al secondo, cioè una cifra assolutamente allucinante. E quello... Provate su un foglio a scrivere uno con 18 zeri dopo, poi vediamo se ci vediamo domani mattina. Quante calcolatrici ci vogliono per fare no, questo? No, al di là delle calcolatrici, il problema è che una potenza di calcolo del genere potrebbe, diciamo, senza troppe forzature, rompere qualsiasi chiave crittografica al momento esistente, perché insomma possono essere lunghe quanto vuoi, ma sinceramente una potenza del genere cioè praticamente potrebbe fare di tutto, cioè se metti tutti i cinesi del mondo con carta e penna non hanno la stessa potenza di calcolo, e loro sono asiatici, eh? Quindi insomma diciamo che ci stanno varie paranoie attorno a sto centro. Come nella sua solita tradizione, l'NSA ovviamente ha risposto a tutte queste illazioni dicendo: un sintetico non è vero niente, non esiste. E quindi il progetto sarà sicuramente esistente. Nel 2018 avremo questa mega stazione con computer allucinanti e pronte ad analizzare, perché al di là dell'intercettazione, diciamo, è proprio un'analisi quella che faranno, tutte le nostre bellissime telefonate, conversazioni elettroniche, etc. Siccome Johnny congelano abbastanza. Questo sì, però una volta avevi la GPG e tutto andava bene. Adesso hai la GPG e ti ma diciamo che la crittografia, cioè con la potenza dei computer, già le chiavi per esempio anche pubbliche e private a 1024 bit vengono definite non più tanto sicure. Però che ne sappiamo, magari Luca Bruno avrà un pomeriggio libero dove riuscirà a inventare qualche nuovo tipo di crittografia. Sì, che in effetti gli dobbiamo togliere un po' di PES 2012. Sì, diciamo, ecco, tra una giocata e un'altra magari si può occupare di queste cose. Per chi non lo sapesse, Luca Bruno è tipo Dio ma più forte. Sì, quindi insomma, dopo questa notizia paranoica facciamo un appello a tutti Luca Bruno in ascolto. Finitela di giocare i vari giochi online di Elfi e fate cose utili per tipo modificare Age of Empires esatto, in maniera... invece di modificare Age of Empires e metterci Longobardi con accento cosentino. Vogliamo esatto. Sponsorizzare Cicillo. Vabbè, quando il nostro lavoro ancora non è il momento, quando diciamo il progetto però sarà una piccola finito. Preview la potremmo dare sicuramente nella prossima puntata, dai. Magari posteremo un video. Va bene, però insomma, sperando che il mondo finisca a dicembre, quindi non dovremo preoccuparci di questo centro dell'NSA, possiamo mandare anche il prossimo pezzo che vedo è di un certo sì. Clarence. Un certo? Quello non canta. Ragazzi, questo è Clarence Gatemouth Brown. E questa è Born in Louisiana, cioè solo il titolo, Gronda di Blues. Allora ascoltatevi Clarence Brown, Louisiana. Born in Louisiana and raised on the Texas side. Born in Louisiana and raised on the Texas side. That makes me a dual citizen, more than one. Texas and Louisiana, you just keep your feet apart. I love both of the planets, that's where I got my start. I was born in Louisiana and raised on the Texas side. That makes me a dual citizen, more than Daddy, I don't know from where, and if someone would ask me, I would say I don't care, 'cause I was born in Louisiana and raised on the Texas side. I was 21 when my father said goodbye. We'll be right back. Questo era il grandissimo Clarence Gatemat Brown e questo era Born in Louisiana. Beh, lui era effettivamente nato in Louisiana. Devo commentare il titolo, Lorenzo. Che cioè, effetto ti fa sentire un titolo del genere? L'ho detto prima, è un titolo che gronda blues da tutti i caratteri, diciamo. Gatemat Brown era un chitarrista nato in Louisiana, però poi trasferitosi nel Texas. Però, come vedevamo prima dalla map, praticamente si è trasferito proprio al confine tra la Louisiana e il Texas. Quindi è come se avesse passato il confine, ma mai uscito da quell'ambiente blues che era la Louisiana, no? È un po' come dire, sì, è nato a Cosenza, cioè in provincia di Cosenza, tipo a San Juan, e poi si è trasferito a Petronà. Però comunque sempre l'aria cosentina ce l'ha. Un po' come dal Male a Mississippi. Vabbè, no, non esageriamo. Un pochettino... Un po' come dalla versione 4 alla versione 6 del TCPP, diciamo. Sì, non cambia nulla alla fine quella cosa lì. Sì, lui è stato uno, indubbiamente, dei musicisti più influenti nell'ambito del blues, nonché un musicista eccezionale e poliedrico. Lui era un maestro non solo della chitarra, ma anche dell'armonica. Suonava di tutto. Del violino. La viola, il mandolino. Batteria pure. Chiaramente anche l'armonica. Ovvio. Un buon bluesman che si rispetta. Ma suona l'armonica, infatti. Tu lo sai bene, lo vedi, certo, lo vedi spesso questo. Le radici di un albero non possono fare ombra, è questo è lo spirito del blues comunque. Mia chitarra. Che perro il nostro ospite. Altissimi livelli, questo è vero. È uno di quelli che faceva parte della schiera del vecchio blues, del vecchio blues, eh? The old blues, same old blues come direbbe qualcuno. Sì, il solito vecchio blues. Infatti è un bluesman, cioè nato negli anni 20, quando quel genere... Nel 24. Sì. Quando quel genere di musica nasceva in pratica, anche se forse meglio metteva le sue radici in quella che era la musica dell'epoca e poi nasceva nel blues, cioè fioriva nel blues negli anni 40-50. Sì, e lui ha messo le radici, come hai detto tu poc'anzi, anche prima il nostro Ciccio, nel 99 nella Blues Hall of Fame in Louisiana. Dove non nella Rock and Roll Fame come magari gli altri grandi icone tipo Muddy Waters, tipo Little Walter e altri, però chiaramente anche questi qui erano nella Blues Hall of Fame, soltanto che è un poco meno conosciuta della Rock and Roll Hall of Fame, perché quella lì diciamo è la più famosa di tutte. Ma forse questo ci aiuta a capire anche quanto questo grandissimo musicista non si sia venduto eccessivamente a quella che era la musica commerciale anche in quegli anni, perché come abbiamo detto più volte negli anni 50 il blues con la Chess Records è diventata la musica poi pop, no? Se diciamo vogliamo. Che pop lo escluderei, però chiaramente nel senso popolare, esatto, ovviamente, che è diverso, sì, da musica pop. Sì. Era musica, alla fine era blues, cioè non era pop. Il pop come inteso oggi, diciamo, la musica popolare di oggi. Sì, ma se diciamo anche che i Beatles sono stati il primo gruppo pop, e molti critici dicono questo, poi ovviamente è una questione anche soggettiva, possiamo dire che la musica commerciale, in quanto moda, in quanto grandi business, abbiamo più volte ricordato un film che ci è piaciuto molto, Cadillac Records, proprio perché la Chess Records, che ha lanciato blues nelle radio di Chicago, e dunque nella cultura, ha contribuito a creare la storia del blues a livello discografico, appunto ha come titolo Cadillac Record, quindi il bluesman che viene dai campi e poi si compra una Cadillac, cioè nemmeno nel più bello dei sogni era così. Bisogna sempre incastonare il tutto nel contesto storico, appunto ogni cosa cambia e muta e quindi la musica narra il contesto storico che segue, che stiamo vivendo. E certamente Clarence, non Seedorf, che ieri non frappè, ma non ne parliamo. No, non ne voglio parlare. Come dicevamo, nell'orgoglio questo. E non sono l'orgoglio, se lo vuoi sapere. è stato un purista che è rimasto nel suo contesto. Sì, vabbè, è rimasto abbastanza circoscritto. Sì. E io lo ammiro molto per questo. Vabbè, però, per esempio, cioè quello che dicevamo prima sulla rock and roll Hall of Fame e la blues Hall of Fame. Little Walter, che è morto nel 68 dopo una risa, però è stato introdotto nella rock per and roll. Per debiti di gioco. Sì, Hall of Fame nel 2008. Cioè, nel senso, è successo 40 anni dopo. Però, comunque, sempre... Non dipende da lui. Forse anche noi un giorno, che ne dici Lorenzo? Sì, metteremo. Io lo vedo Lorenzo Blues nella Rock and Roll Fame. Come lo vedi tu, Ono? Ai vertici, proprio. Ma proprio siamo lì. Adesso From Rossano with the blues, Calabriforni. E chiaramente questo è sempre col blues. Bene, noi siamo i Mozilla Bros 105.7. Veramente? Sì. Chi siamo? Quei minchioni di Mozilla Bros su Radio Ciroma. Vi ricordiamo i nostri contatti. Il nostro sito web è www.mozillabros.com, dove potete ascoltare lo streaming in diretta del nostro operato. Oppure potete trovare i podcast curati dal nostro grandissimo Cicillo Blues. Oppure i contatti veri e propri ce li ricordi tu? Il numero di telefono sì, della radio? Sì, potete telefonarci in direttissima allo 0984 28 250. Non imparerò mai questo numero. Sì, te lo devo tatuare sull'avambraccio, così almeno te lo ricordi. Sì, qualcuno l'ha già fatto. Si è tatuato 87 gemme. Poi siamo anche in replica su Radio Transizione di Fase ogni lunedì. Forse, perché non mi ricordo se dobbiamo caricare i podcast noi o forse no. Però forse ci siamo. Sì, e poi su su Fuori Onda Radio. No, non in FM, siamo in replica. Su Fuori Onda Radio due volte la settimana, tipo il martedì alle 15:30 e il venerdì alle 16:00. In effetti in FM non ci mettono in replica a noi. Mi sa, sti lotti di Ciroma non ci mettono in replica. E dobbiamo ribellarci. Siamo l'unica trasmissione. Vogliamo la replica, oh. Sì, vogliamo la replica. Revolution Number 9. Eh? Comunque, a proposito di replica in FM, volevo raccontare un fatto strano successo giovedì scorso. Tornavo a Cosenza da Rossano, mi sono fermato all'autogrill, prendendo un caffè ho sentito un pezzaccio dei Queen, che era Somebody to Love, e poi uno stacchetto prima della sigla di RTL 102.5 che faceva tipo: beh, come lo vedi sto pezzo? E la voce di Andrea dice: ah, che pezza! Cioè, quindi è capace che questi lofi di 102.5, se ci stanno ascoltando, sono dei lofi, cioè, perché ce lo devono dire questo. Ci hanno preso, ci hanno ritagliato. Questo è plagio, questo non è plagio. Plagio, perché siamo pure contenti di... No, ma hanno violato la Creative Commons di attribuzione. Esatto, perché noi... Facciamo causa, subito RTL 102.5. Con quali sordi facciamo causa? Vabbè, teniamo l'occhio per change. Ebbene, ma... Il blues è freak, Chinini freak, oh no. Ma è giusto per cacare la minchia a quelli di RTL, sì, sì. È giusto per questo. Capito RTL? Comunque, visto che parlavamo di grandi bluesman, dedichiamo la prossima canzone al forse il più grande bluesman che abbia mai messo piede fra Arcavacata e Cosenza Vecchia. E che adesso adesso è a Milano. Vabbè, non è Lorenzo. Non giochiamo. Diciamo da Marano con sì. Un grande blues. Non giochiamo che e con tantissimi contatti, soprattutto. E questo pezzo lo dedichiamo a lui perché è riuscito in quel freddo, brutto posto di Milano, in una festa di metallari, pensa un po' tu, a far passare questo prezzo e a farsi abbracciare dal DJ che con le lacrime agli occhi, cioè, scene di panico. The power of the blues, come direbbe qualcuno. E questa è per lui. Blues power, come direbbe Eric Clapton invece. Il gatto Megan ritorna a farci compagnia. Maledetto gatto. Maledettissimo. Non ci puoi dire niente. Andrea oggi mi chiedeva perché il gatto Megan è nella nostra trasmissione. Ascolta cose. Che poi si ascolta. Andrea Blues mi chiedeva perché il gatto Negan è nella nostra trasmissione. Perché ci sono i nerd. Capito. Ma perché ci sono i nerd dove c'è il gatto Negan? Come dire, perché c'è Gesù dove c'è la chiesa? Esatto. È come dire, perché c'è Lorenzo dove c'è il blues? Esatto. Hai capito, bravo. Quindi è una domanda che trovi la risposta nella stessa domanda. E ripigliamo le news nerd. Sì, vogliamo dire che abbiamo passato i grandissimi di Purple. Ma la gente lo sa, ci ha pure chiamato Oreste per farci complimenti. Quindi siamo ritornati a passare la musica tosta degli anni 70, eh? Grazie a Natale, visto che insomma dall'altra parte del vetro No, grazie a nulla, no. Grazie a Nasbornia. Grazie. Vabbè, quella è sempre propedeutica, quella è fondamentale. Cari nerd, cosa ci dite adesso? No, un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il processo Pirate Bay, di cui avevamo già parlato qualche puntata fa. Ma insomma, è sempre uguale, c'è un nuovo non sbloccato. No, la situazione è, vabbè, che c'erano state le condanne in sede d'appello. E uno dei, diciamo, dei quattro imputati, il magnate Carl Lundström, è stato in seguito poi condannato agli arresti domiciliari, perché in Svezia la cosa è toga. Visto che hai una pena inferiore ai 6 mesi, puoi tranquillamente, non sei diciamo pericoloso per la società, e quindi puoi rientrare a casa tua. Ovviamente, vabbè, visto che essendo nell'ambito elettronico è stato dotato di un mega braccialetto tipo film americani, per cui non ti potrai allontanare se non sotto autorizzazione. Però c'è da dire che se l'ha cercata, perché poteva semplicemente pagare una multa di 6,8 milioni di dollari e sarebbe stato tranquillo. Ma il nostro povero amico, non facendo diciamo né l'idraulico né il parlamentare italiano, non può pagarsi questi 7 l'idraulico? Vabbè, questa è una vecchia battuta di Luttazzi. Difendo la classe degli idraulici. No, era una vecchia battuta di Luttazzi. Capovieta a loro. Dico sì, gli idraulici, ho visto tanti film sugli idraulici, sai? Vabbè. erano porno, eh? No, non erano porno, erano film documentari, diciamo che... Nel ruolo di membri principali. Bravissimo. Ad ogni modo, insomma, questo Carl Lundström è stato appunto portato agli arresti domiciliari, mentre gli altri tre imputati, di cui pensate di uno si dice che sia morto, niente di meno, tanto si è reso indisponibile, gli altri due invece sono fuori dalla Svezia, quindi probabilmente non andranno mai dentro né appunto agli arresti domiciliari. Ma tipo se uno scappa e va dall'altra faccia del globo, diventi lo piglia, no? Si chiama latitanza questa. Wow. Però casomai ci stessero ascoltando, noi siamo disponibili a ospitarli anche qua, cioè. Sì, ovviamente le nostre pianure, le nostre colline di Cosenza sono disponibili ad accogliere tutti i latitanti del mondo. Vabbè, c'erano i briganti. Appunto, abbiamo visto i briganti, non ci sicuramente, anzi, questi personaggi sono... La storia ci insegna. Sono ben accetti, assolutamente. Questa era la versione jazz, perché vedi com'è versatile il nostro gatto. Già così è una già cosa. E comunque, sempre per rimanere in tema di Pirate Bay, visto che la scorsa puntata avevamo detto che era comparso proprio su Pirate Bay questa lettera dei sbirri, non mi ricordo dove, che preparavano un raid contro Pirate Bay. Pirate Bay ha risposto dicendo che insomma è ora di finirla, se volete venire a spegnere i nostri server dovete arrivare più o meno a 50.000 metri di quota. Infatti l'ideona avuta dei tipi di Pirate Bay è quella di mettere dei droni autopilotati con GPS che dovrebbero volare in orbita bassa a 50 km di quota, e dotati di collegamento appunto con GPS per spostarsi e con Link Radio, che a quella quota dovrebbero comunque garantire almeno 100 megabit di banda, quindi comunque utilizzabilissimi, e usando magari piccoli computer embedded tipo il Raspberry, praticamente vogliono spostare i loro server su questi droni. Per la serie che se volete spegnere i nostri server, dovete far decollare un aereo e abbatterli, che sarebbe un vero e proprio atto di guerra. No, è simpatico come, diciamo, si stiano questi grandissimi hacker si stiano spostando dalla Terra verso il cielo. Già al Chaos Computer Club si era parlato di un satellite addirittura gestito da noi hacker, dico noi perché insomma chiunque di noi non si riconosce nell'altra cultura, per quanto mi riguarda, è già un hacker. Ad ogni modo è simpatico perché sicuramente sarà una provocazione. Ma vista Kiss, scusa. No, è un buon frappè, insomma. Cici, dalle mie parti si dice o a terra Iza o ce lo lasci. Perfetto, esatto. Appunto. Diciamo che la saggezza, come al solito, se mai a Cosenza manderemo in orbita un satellite, sarà questo il motto. Oppure a Ruculo, visto insomma, che siamo a Cosenza, credo. Anche. Credo che vada bene anche. Noi diciamo magari, che votiamo per il secondo. Magari il secondo nome sarà Ruculo. Insomma, da questo punto di vista possiamo stare tranquilli, perché le idee agli hacker non mancano di certo per aggirare tutte queste restrizioni che in questi ultimi periodi, diciamo, si stanno facendo davvero stringenti. Sono numerosissimi ormai, quasi tutti, anzi, siti di hosting tipo Mega Upload o Mega Video, eccetera eccetera, che ormai sono chiusi o si sono niente di meno autochiusi per paura. Cioè, la cosa è ancora più terribile. Anche perché ricordiamoci che dietro alla lotta alla pirateria o alla pedopornografia di turno ci sta sempre tentativi di censura che magari oggi vengono applicate a queste cose che la gente accetta più facilmente, ma un domani potrebbero essere applicati, come è stato per esempio nelle rivolte nel Nord Africa, a qualsiasi forma di dissenso. Ma comunque, insomma, non c'è bisogno di guardare a 50.000 metri di quota per modi di condivisione file, diciamo, difficilmente censurabili o comunque anche... Bastano 3.000, dici tu. Anonime. No, basta proprio una cosa terra-terra, vero Cici? Sì, terra-casa, nel senso che, come abbiamo avuto modo di parlare in una trasmissione, mi sembra a novembre, di reti mesh, router... ritruccati, diciamo, e router con la tinta questa... come sto Lorenzo Blues. Appunto, ognuno di noi, diciamo, hardware permettendo, ma ormai sono praticamente quasi tutti i router che permettono di fare una cosa del genere, può trasformare il proprio oggettino che fornisce connettività wireless ai nostri computer in una vera e propria stazione, scatola dei pirati. Infatti il nome Pirate Box vuol dire questo, e in sostanza si tratta di far girare un piccolo server, a dire il vero è un comando, niente di meno. Questo server si ruggia un comando che ti permette in tutta tranquillità e trasparenza e sicurezza, ebbene sì, di magari, appunto, scambiare i file con chi si connette a questa rete. È una cosa abbastanza cazzuta, la puoi implementare dove vuoi, quando vuoi. Devi avere tanti contatti però per poter fare questo. Tu potresti essere, diciamo, un buon cavallo di Troia. Saresti il Pirate Bay proprio fisico. Un cavallo di battaglia, sì. 4.000 contatti, poi capito. Ma non abbiamo vero, ma magari, Lorenzo Blu. Che poi di questa Pirate Box, che è semplicissima da realizzare, trovate un sacco di wiki che ne parlano online. Ce n'era anche un esemplare in P2 fin quando non abbiamo dimenticato la password di SSH. Perché siamo delle ciolle spaziali, oppure perché, diciamo, la memoria a lungo termine dei nostri amici Ono Sendai e Garulf è pari non lo so che cosa, insomma, non mi viene nessun paragone in mente. Al pipino di Cristo. Beh, dopo queste informazioni interessanti dei nostri nerd di fiducia, possiamo passare al prossimo pezzaccio. E questo è un bluesman veramente. Do it your blues. No, no. Mentre volevamo fare gli auguri a un bluesman. Sì, sai Lorenzo, noi i nerd hanno detto adesso che non hanno memoria, ma noi quando serve l'abbiamo. Il 21 marzo poi confidenza però comunque. Che boh. Poca. 21 marzo less confidence. Mindo sottofondo e citto. Il 21 marzo nel lontano, lontanissimo Cicillo, 1902, 110 anni fa, 110. Sei bravo in matematica. No, avevo la calcolatrice. Ah, vabbè, vabbè. E sono nato, professor. È nato Eddie James Sonhouse Junior. Junior. Che è stato niente poco di meno che, cari bluesmen, amici di Petronà, il pioniere della slide guitar e del blues, come poi lo abbiamo conosciuto nel Delta, no? È chiaro. Negli anni 30, la fine degli anni 30, i primi 40. Diciamo è stato anche colui che ha ispirato un certo Robert Johnson. Quindi si può dire che lui era il diavolo. Però erano Prievite. Sì, vabbè. Ed è stato anche in galera un anno. Era un prete, dovete stato in galera. Questa era, diciamo, che la vita del bluesman. Perché ha ucciso uno. È stato in galera, è diventato prete. Perché ha ucciso una persona. Sì, ah, ma quindi è diventato prete dopo. No, lo era già per prima. Meriti, diciamo. Per meriti sportivi, ecco. Sì, sì, arbitro, sì, sì. Arbitro. Vabbè, insomma. Cioè, praticamente con un cristiano ammazzato eri un prete battista. Poi più ne ammazzavi, più aumentavi di grado nell'ecclesia. Se non mi sbaglio, funzionava così. Mi pare che Hitler era stato candidato al Papa Wurz. Sì, sì, sì, sì. Quindi sì, pensate, sì, il Papa oggi, Benedetto. Poi è stato superato Benedetto, da Mao. Maledetto XVI. Benedetto Amen Rotanti XVI. Lui è quello che si serviva del bottleneck, il classico collo di bottiglia delle bottiglie di whisky. E a proposito di bottleneck, salutiamo Alex Bottleneck Cipollari, il nostro ospite delle trasmissioni di gennaio, nonché tuo cugino, diciamolo, per questo lo stiamo salutando. Sì, vabbè. Dopo nepotismo. Dopo Sonhouse passiamo a un altro bluesman veramente d'altri tempi. Un certo John? No, un certo Bo Diddley. Wow. Wow. Agape gamba. Sì, e questa è Cadillac di Bo Diddley. Morning, D-A-D-I-L-A-C. Buonasera a tutti, questi sono i Mozilla Bros e questa è Radio Ciroma 105. Ah, ripigliati, gambe. Ma che adesso pagliacci? Era Stefano, con la voce più calda di Petronà. Questa è... Questi sono i Mozilla Bros. Non fare, non, fa, non fare spam. Ti piacesse. Dunque, noi siamo i Mozilla Bros, come al solito Radio Ciroma 105.7 dalle 7 e mezza alle 8 e mezza, perché a questo punto... Simona Brigogna. Sì, sì, non riusciamo ad arrivare a fare una puntata in orario, per colpa di Andrea. Poro! Zitto! È colpa tua. Beh, questo, quello che abbiamo ascoltato era Bo Diddley. Chi è Bo Diddley? Chi è Bo Diddley? Blues? A proposito di gente che ha ispirato gente... Se Son House ha ispirato Robert Johnson e comunque il blues in generale e l'utilizzo del bottleneck, lui ha ispirato gente come Eric Clapton, Jimi Hendrix, i Doors, i Rolling Stones, vabbè. Ci hai fatto caso che quando parliamo di gente che ispira gente, c'è sempre Eric Clapton che si è ispirato da qualcuno. E ispira qualcuno pure. Vabbè, cosa dire di Bo Diddley? Ma ispira o aspira? Ispira. Ok. Con la I. Sì, dicevamo Bo Diddley, un'altra delle tantissime leggende blues di cui noi parliamo E che tentiamo. Passiamo in radio. Sì, come ci suggeriva un nostro amico qualche ora fa, era Kiruka, si faceva chitarra con un morsilegno. Citazione necessaria. Che tecnicismo, sì, per descrivere la sua chitarra. Tecnicismo che di Peppone Blues. Cioè, diciamo che Stradivari in confronto era un ragazzino, dai. Sì, era un artigianico senza viccio, se vogliamo. Ma nemmeno. C'è qua un artigiano che fa chitarra. Infatti, non voglio essere frainteso. Merito al rispetto. Non sappiamo chi è. Mastro Lutaio. A rimasci gli utai di Cosenza Vieccio, di Corso Talesio, che ha una grande storia, Corso Talesio, di orificeria e di liutai. E quindi ne siamo fieri, lo dobbiamo dire. Chiudiamo questa parentesi patriottica, ritorniamo a richitarre il crumorzilegno di Bo Diddley. Era solito suonare i suoi concerti con una chitarra di forma rettangolare, fatta solitamente da lui. Pigliava sti cazzo di pannelli di legno di... Non t'ha avuto praticamente. Non t'ha avuto. Like. Che è successo? E anche te. Ci implementava la sua elettronica comprata da Gibson o Fender, comunque i meglio dell'epoca. E poi ci suonava. Quello che ne usciva l'avete potuto appurare prima. L'originale del rhythm and blues, proprio. Sì, esatto. Diciamo che, come dice il buon Ciccio qui presente, l'originale del rhythm and blues. Ma che ne si sta facendo si risate? È arrivato. Chi ne casi sciala? È arrivato il momento. Minchiate. È arrivato il momento tanto atteso. L'altra volta l'abbiamo saltato. Causa mal di testa, ma specialmente, diciamo. Mal di guest. No. Causa ritorno di Garulf. Abbiamo sicuramente. Vabbè, diciamo, tutta la puntata è stata un. È stato un delirio come al solito. Esatto. Non c'è bisogno che ci giustifichiamo. Però adesso. Questo è arrivato il momento della tua rubrica. Della tua bellissima rubrica. Sì. Curata personalmente da te e dagli amici di Punto Informatico che non vogliono scrivere articoli. No, diciamo che possiamo tranquillamente completare. Non so se vi siete persi le ultime puntate. L'identikit del nostro idiota perfetto. Allora, tablet in mano sicuramente, indispensabile. Tablet spazzolino gay. Spazzolino Bluetooth collegabile al tablet per sapere quanti minuti al giorno ti sei lavati i denti. Skateboard comandabile con le onde cerebrali, per cui diciamo ti fracomi nel momento in cui pensi a quanti minuti ti sei lavato i denti. Orologio senza quadrante. O vedi una ciuccia. Vabbè, sì, esatto. Diciamo. Orologio senza quadrante per prendere il sole in maniera imbecille. E poi lettiera per gatto, questa volta una cosa utile, ricavata da un vecchio Mac. Una cosa utile da fare con i Mac. Sì, assolutamente. Però visto che il nostro omino intelligentissimo è sicuramente trendy, avrà bisogno di un tatuaggio e in suo aiuto... Ovviamente. Ovviamente. Senza tatuaggio chi uomino sì. Chi uomino soprattutto. E in suo aiuto... Dici. Lorenzo Plus ha un tatuaggio, non vogliamo parlare? È il tatuaggio del blues nella tua anima e nel tuo cuore. Ciotia proprio una lira. In ogni caso. E io che mi preoccupavo di avere un tatuaggio e non sapere come l'avrò fatto. Ad ogni modo, appunto, stiamo parlando di tatuaggio. In suo aiuto, nell'aiuto della sua idiozia, specialmente arriva la Nokia. La Nokia, che col tatuaggio che risponde. Ultimamente, diciamo, dopo il passaggio a Windows 8, probabilmente ne sta facendo una più bella, sì, dell'altra. Una cappellata dietro l'altra. Ha deciso di fare, appunto, questo nuovo sistema, tra virgolette, di tatuaggi, inserendo le sostanze ferromagnetiche che reagiscono, appunto, al campo elettromagnetico generato dai tablet. E in questo modo far interagire l'essere umano con i tablet, cellulari, eccetera, eccetera. Al solo costo di un tumore l'ora. Sì, sì, sì. Ma vuoi mettere che quando ti chiama qualcuno... E tu non c'hai il telefono vicino, c'hai questo tatuaggio che brilla? Okay, no, sì, sì. No, no, no. La cosa bellissima è che tu vibri. Sì, vabbè. Al che adesso... I vecchi maialetti. No, senza vecchi maialetti. Tatuiamoci la cappella. La cappella di chi? Al di là della forma di chi? E della proprietà di questo esemplare magnifico da un punto di vista architettonico. Una cappella stiamo parlando. Ah, sì. Tipo che era Sistina. Avevamo parlato tempo fa di un programmino scritto dal nostro amico fondatore TechnoRaver, che si chiama Masturbator Pro. Esatto. Diciamo che la Nokia l'ha voluto scavalcare in questo modo. Sì, lo in che senso? Come funziona? Allora, perché? Visto che c'è il nostro ospite che non sa come funziona Masturbator Pro, quindi vuol dire che non ci segue, quindi non lo inviteremo mai più. Oh, magari. Ma io non ci credo che non sa cos'è. No, secondo me non ci credo io. Giustamente mi piace pensare che non l'abbia provato, quindi per quanto riguarda rimane ancora un mio amico. Ecco. Sì. Questo Masturbator Pro non è altro che un piccolo hack fatto sulla vibrazione dei nostri cellulari. Un programmino che sfrutta semplicemente il motore della vibrazione, esatto, del cellulare. Quindi invece di portarti un dildo nella valigia, ti portavi il cellulare dove volevi. Potevi questo programmino, premevi il sollazzarti, diciamo. Tipo, ci sono persone che se lo infilano nell'ano. Tipo, chi non risponde, no? Scusate il neologismo. Sì, questo è una buona... Riferimenti sottili del nostro amico. Ad Andrea Blues, naturalmente. Esatto. Senza fanomi. Vabbè, Andrea, adesso puoi scaricare Masturbator Pro dal sito di Matteo Croce, quindi... E quindi adesso pensiamo che non ci sia più bisogno di un vero e proprio cellulare. Come dice Marco, giustamente editato in una grandissima cappella... Non necessariamente nelle vicinanze del pub, semplicemente facendo squillare. Oppure, se sei una persona come Andrea, che ha molti contatti, sei fortunato che ti chiamano molte persone. Quindi, diciamo, il piacere all'ennesima potenza. In pratica, ogni chiamata una gioia. Cioè, sto coso funziona che ti applichi questo adesivo, che ne manco un tatuaggio. No, è un tatuaggio. Zizi. Qua dice, ah sì, vabbè, però con un adesivo. Cioè, può essere o uno sticker oppure tu nell'inchiostro. Sì, comunque è un tatuaggio, Lore. Cioè, no, vabbè, è un tatuaggio. Cioè, quelli che uscivano nelle patatine non erano un tatuaggio. Erano comunque tatuaggi, cioè tu te li tatuavi. Erano proprio tatu. Proprio li mettevi con due azioni, facevi ta e pu, tu. No? Vabbè, l'importante è venire comunque. Cioè. Ovvio. Sì. Insomma, dopo aver fatto questa operazione di trendismo al nostro amico, abbiamo bisogno di vestirlo questo nostro amico. E qui come lo vestiamo? Un altro genio ha pensato bene di applicare su una maglietta magari nera dei LED collegati a un sistema Arduino, collegati a un sistema Arduino. Cioè, dovevi portarti appresso uno zaino per farti illuminare una maglietta. E questa maglietta simulerebbe... Simulerebbe... simulerebbe le lucine che si muovono quando cerchi di caricare un filmato da YouTube. In realtà comunque non servirebbe lo zaino, perché il circuitino Arduino è alimentato da una batteria da 9 watt. Comunque... Ma questi vengono pagati tipo chi si tatua un tatuaggio di Dolce & Gabbana per pubblicità, Giorgio Armani? Poi potrebbe essere, pensa, che ne so, quando squilla si illumina il tuo tatuaggio Dolce & Gabbana, oppure mette una cosa tipo Batman, non lo sai, insomma. Mm-hmm, cioè, capisco. Poi le applicazioni sono molteplici, gli idioti nel mondo ce ne sono, quindi le evoluzioni saranno sicuramente tantissime. Purtroppo direi. Bene, diciamo, dopo aver concluso questa rassegna, diciamo che ho recuperato rispetto alla scorsa volta. Adesso passiamo all'altro momento molto atteso. Sì, caro Ciccillo, abbiamo questi momenti speciali. E come potrei definirli, Ciccio? Sai, quando vengono quei momenti di magia, possiamo dire, dove ci sono quelle persone in grado di trasmetterti qualcosa che ti resta. Questo è uno di quei momenti, e se mi arriva uno sfondo degno, noi abbiamo il nostro special guest, che non è più special perché c'è sempre, ma ne siamo felici di questo. E su questo sfondo introduciamo il nostro cantante, che ha qualcosa da dirci. Buonasera, ora vi dedico questa poesia che comincia Tristezza della luna. Nei suoi sogni la luna è più pigra stasera, come una bella donna su guanciali profondi che carezzi con mano disattenta e leggera, prima d'addormentarsi i suoi seni rotondi. Lei su un sericco dorso di molli arie nevi, moribonde si estenua in perduti languori, con gli occhi seguitando le apparizioni lievi che sbocciano nel cielo come candidi fiori, quando avvolto dai torpidi suoi ozi una segreta lacrima spugge e cade sulla terra, un poeta nottambulo raccatta con mistico fervore nel cavo della mano quella pallida lacrima, iridescente come schegge d'opale, e per sottrarla al sole se la nasconde in cuore. Scusate, vi devo dare un'altra cosa. Il sabato prossimo andate allo Scorpio. È una festa di solidarietà per Alessandra Donato. Pure che non conosco, andateci. E questa era la poesia del nostro special guest, che ovviamente non finisce qui di stupirci, di estasiarci. Andrea, cosa ci canti stasera? Nel Sedank of Clown. Buonasera, ascoltate questa canzone verso la radio, trasmessa. If you lie, all the lie, I will say, will I say, la, I do lie, off a clown, I will say, so lie, I will, I say, will I say, la, so lie, and the lie, I will ever, so lie, I will stay, Wala stella, ella fella, fella stella, I love one off the ground, I love the off the ground. Questa canzone anni 30, anni 40, non lo so se la ricordate. Bravo! E mo vi canto una canzone di, se posso cantarla, di Lucio Battisti. Io lavoro e penso a te, torno a casa, pensa a te, non sono stato divertente, e pensa a te, solo al buio, e pensa a te, chiudo gli occhi e pensa a te, io non dormo e pensa a te, non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo cosa stai pensando? È troppo grande la città per due che come noi si sperano, però si stanno cercando, cercando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Buonasera. Andata, scordata una. Bene, cosa. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Ma proprio al termine. Sì, ma proprio al termine, nel senso che siamo finiti pure noi, diciamo. Siamo arrivati proprio at the fruit. At the fruit. At the fruit. Big drink is finished. C'è rimasto solo il frappè di pesce spada che Andrea produce in quantità industriale. Ma non eri tu quello del frappè? No, non ero io quello del frappè. Per concludere questa fantastica trasmissione piena di ospiti, piena di gente, infatti siamo 27 in cabina di registrazione, 43 in cabina di regia, che è un po' più grande. D'ora in poi saremo sempre così. Cazzo. Vi salutiamo noi Mozilla Bros. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione mercoledì prossimo. Come sempre alle 7. Saranno mai alle 7. Oppure nelle varie repliche che abbiamo già detto prima. Che abbiamo già detto. Risalutiamo il cantante Montesano, tutta Petronà. Che entusiasmo. L'altissimo Andrea Blues, i nostri nerd in regia, Lorenzo Blues. E questa è Cold Shot di Stevie Ray Vaughan per chiudere. Mozilla Bros, buona serata. Blues on, ciao. Ciao, raga. I'm gonna shoot on my coat.